sábado per andare via. E guardo il fuoco che tutto brucia, le torri abbatte, il palazzo cade, Priamo non è più re. E cedere il suo regno tu, Cassandra, sai, l'avevi già previsto. Città, la mia città è ancora in fiamme, scappa una città tu fonderai, sai, sai, sai, in fretta a casa, mio padre è solo, il bimbo a letto, mia moglie prega, presto andiamo via.